Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma eccomi qui, questo è il mio momento, la vostra salutare ossessione quotidiana, la vostra Nico, pronta come ogni mattina a coccolarvi o a tormentarvi, ditemelo voi. Intanto buongiorno al professor Ernesto Di Pietro, che è qui accanto a me, osteopata, professore di biomeccanica all'Università Statale di Milano e all'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, buongiorno. Ma buongiorno a te Nicoletta, buongiorno a voi. Allora, professore, io farei questa sorta di gioco. Sì. Occorrente per la puntata di oggi, una radio, beh, ce l'hanno, ci stanno sì, ascoltando, il professor Ernesto Di Pietro, presente. Ce l'abbiamo, due dita, sì, eh? Sì. Perché oggi insieme a lei andremo a individuare e stimolare, quindi pressare o massaggiare, punti che potrebbero essere magari la causa di alcuni nostri dolori o piccoli problemi. Insomma, andiamo alla causa di quelle tensioni che proprio si presentano al mattino, che non hanno all'apparenza una causa specifica. Sì. Quindi in giro per, facciamo un viaggio. Da che cosa cominciamo? Dal fatto che effettivamente quando ci alziamo, quando siamo a letto, appena alzati sentiamo dei dolori che poi diciamo tutti, no, poi mi scaldo, scaldo i muscoli e vado, passano, bravo, e non bravo. Ci penso fino poi a domani prendo mattina. Prendo il caffè e via. È vero? Sì. Ci vorrebbe a quest'ora. Vabbè, dopo lo prendiamo. Ok. Allora, partiamo dall'alto verso il basso. Sì. Perché noi siamo attraversati da una forza. Sì. Questa forza, l'accelerazione di gravità terrestre, va dall'alto verso il basso. Quindi tutto ciò che avviene più in alto lo paghiamo più in basso. Molte volte, se vi siete alzati e avete un dolore al ginocchio, magari il ginocchio, povero, non ha niente, è qualcosa che riguarda l'addome. Bisogna il andare collo. A monte, come sempre, si dice, sempre, sempre a monte. Sai qual è la cosa, per esempio, l'indice più importante da utilizzare in questi casi? La bocca. Perché magari stanotte abbiamo, non so chi di voi, io sì, ve lo dico perché l'ho provato stamattina, però sapevo cosa fare e quindi sono qui tranquillo. Allora, ho aperto bene la bocca, proprio l'ho spalancata e ho sentito un dolorino nell'articolazione, proprio di fianco quasi all'orecchio, nella faccia, da una parte sola, e non mi ha permesso di aprirla tanto bene. Quindi sicuramente sarò stato più arrabbiato del solito e stanotte ho digrignato i denti o li ho serrati forte forte forte e mi ha dato questo problema che nel momento in cui io sono steso non scende verso terra, me ne accorgo quando mi alzo. E allora la prima cosa da fare potrebbe essere, se pensi che sia opportuno Nicoletta, andare a capire come sta la nostra bocca. Mi sembra un'ottima idea. Allora, avete uno specchio? Ecco, procuratevi uno specchio. Mi sento andate la cosa, davanti a... sì! Andate davanti ad uno specchio, se ci siete. O tanto il telefonino l'avete lì, ok? Allora, prendete il cellulare, come se voleste farvi un selfie, e inquadrate, anche se siete stesi, inquadrate la vostra faccia, bello, in primo piano. Mettete il dito indice, come se voleste dire silenzio, quindi che parte dalla punta del naso e scende, a questo punto lentamente spalancate la bocca e guardate rispetto al dito se il mento va più a destra o più a sinistra, oppure se avete dolore quando l'aprite proprio tanto tanto tanto. Rimanete così un attimo, adesso vi lascio, adesso chiudetela piano piano e vedete se fa dei clac, degli scatti, eccetera. Se succede questo, una di queste cose, vuol dire che il problema arriva da lì e lo pagate quando siete stesi. Perché lo pagate? Perché la bocca non vi ha permesso di stare con questa bella cervicale stesa bene, sì, no? Ma vi ha costretto tutti i muscoli del vostro collo, lo sternocleidomastoideo. Un nome impossibile. Vero? Che... è il muscolo che va dalla clavicola davanti e arriva... È però la causa di, spesso di quel dolore, di quella tensione al collo, quella che noi chiamiamo cervicale. Quindi con questo esercizio noi possiamo individuare una delle cause. Sì. La principale del dolore al collo. Sì, cosa sì, faccio? Sì, sì. A questo punto prendiamo o una cicca di primo mattino, magari una caramellina alla frutta bella gommosa, sì, e cominciamo a masticare, ma lentamente, ma lentamente, ma lentamente. A questo punto vedrete che piano piano i muscoli della bocca si scaldano, sì, e tutto si rilassa. Oh, e la giornata vi sorride. Scendiamo, professor Di Pietro. Se non è la bocca, sicuramente è l'addome. Quindi o lo stomaco, perché abbiamo mangiato troppo, abbiamo avuto un po' di reflusso, non abbiamo digerito magari bene, oppure è la pancia, sempre perché abbiamo mangiato troppo, non ci siamo scaricati bene, magari siamo abituati a scaricarci al mattino ma non c'è stato tempo, siamo usciti prima. Questo gonfiore addominale può dare dei dolori che non sono all'addome, sai, sono alla schiena. E possono anche prendere le gambe. Quindi sono questi i due punti, tolta la bocca, valutare se la pancia è gonfia oppure no. Come facciamo a far questo? Allora, andiamo dove finisce la gabbia toracica, in mezzo. Sì, alla fine dello sterno. Alla fine dello sterno. Scendiamo due o tre dita più in basso. E ci sono. Con il dito indice, abbiamo detto che usiamo solo due dita, qui uno addirittura. Risparmiamo. Spingi, dimmi se senti dolore. Sì, o ecco, vuol dire che bruciore, c'è qualcosina che non va nello stomaco. Per cui questo gonfiore addominale in questo caso c'è. E magari una colazione per qualche mattina con un pochino di un po' di bicarbonato prima della pastigliettina, proprio da 500 mg, piuttosto che un po' di acqua e limone potrebbe far bene. Sempre se non c'è patologia, certo. Se no, dal medico di base, certo. Di corso. Io posso ritornare al collo, professore? Certo. Perché il collo è responsabile di una serie di problemi, ma un muscolo del collo in particolare, penso alle amiche, anche agli amici che sono davanti allo specchio, il collo ci mette lo zampino anche... nelle rughe. Bravo, allora vogliamo essere anche belli, belli distesi, oltre solari, certo. Ottimisti per iniziare la giornata, certo. Che c'entra il collo con le rughe? Oh, c'entra, come cosa c'entra? La testa sta su per due coppie di muscoli che si contrastano tra loro, cioè uno è l'antagonista dell'altro. Quello dietro la schiena, che è il trapezio, questo muscolo grandissimo, quello che fa male di solito, ma la colpa di tutto è quello che citavo prima, il nome è un po' bruttino, è sterno. Cleidomastoideo. È quello che passa di fianco al collo. Voi adesso provate, sempre con le due dita, a pinzare il collo lateralmente. Vi accorgete se ravanate un po'. Sono due cordoni. Due cordoni duri. Sono quelli. Sì, la colpa è quella. Lì. Massaggiate quelli finché rimangono rilassati e se spingete non vi fanno male. Quello è il primo punto da mettere a fuoco per essere sani e belli, perché la bellezza, vorrei chiudere con questa... con questa massima. È un effetto, di Pietresca. È un effetto collaterale della buona salute. Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, bene. Ci sta ancora un altro puntino. Sì. Ad esempio un semplice test per valutare il nostro grado di agilità. Professore, che dice? Allora, perché noi diciamo siamo tutto rotto, mi lamento, in realtà magari siamo in forma, abbiamo solamente bisogno di muoverci un pochino di più, insomma ci lamentiamo, come si dice, di gamba buona. E a proposito di gambe... Allora, prima cosa, abbiamo sbloccato la bocca come vi ho detto? Sì. Ok. Abbiamo massaggiato un pochino l'addome pinzandolo un po', l'abbiamo liberato, perfetto. Abbiamo bevuto abbastanza i giorni scorsi, diciamo di sì almeno 2 litri. A questo punto scendete dal letto, tiratevi in piedi e fate i primi due passi. Se avete fatto le prime 3 cose che vi ho detto, in teoria siete a posto, siete in auto in questo momento. Quando scendete dall'auto, dal sedile della vostra automobile, provate a vedere se state un po' meglio dopo quello che vi abbiamo detto. A questo punto vi siete accorti che non avete nessuna patologia. Avete solo bisogno di abitudini un po' più salutari, sia per la bocca che per l'addome. Grazie al professor Di Pietro. Bene, adesso è arrivato il tempo di presentarvi l'ospite della nostra settimana, che sino a venerdì ci accompagnerà, il dottor Stefano Erzegovesi. Buongiorno al nostro medicuoco quasi cuoco. Buongiorno Nicoletta, siamo qua. Allora, proprio in veste di medicuoco quasi cuoco, per tutta questa settimana, dottor Erzegovesi, lei ci suggerirà una ricettina al giorno. Oggi è lunedì, iniziamo la colazione. Dai, al facciamo mattino. Le cose per bene. Perfetto. Al mattino dobbiamo pensare di essere sazi e di essere lucidi mentalmente fino a mezzogiorno. Quindi abbiamo bisogno di un'energia ricca di nutrienti, ma non troppo rapidamente assorbibile, perché sennò la glicemia, cioè gli zuccheri, salgono e questo ci fa male. Quindi il consiglio che io vi do è: fatevi una crepe super naturale e super semplice, mettendo in una ciotolina della farina. Io consiglio la farina di grano saraceno, quindi una farina che ha anche un sapore un po' particolare, che è buono a colazione. Ci mettete l'acqua e create l'equivalente di una pastella. Io l'ideale, anche perché così si fa presto al mattino, che non abbiamo tempo, è fatela la sera. Al mattino lei è bella idratata, più la farina è idratata e più ci fa bene, perché riesce a cuocere bene, essere digeribile. Padellina antiaderente, ma neanche un goccio d'olio, semplicemente una carta assorbente con cui la passiamo con un pizzico d'olio. Mettiamo dentro una mestolata della nostra pastellina. Aspettiamo che faccia le bolle. C'è un momento preciso, che è quando il bordo della pastellina comincia a staccarsi dalla padella antiaderente. Quello è il momento. Due dita, zac, la prendiamo, la giriamo, la facciamo ricuocere per un altro minuto dall'altra parte e abbiamo la nostra crepe. Ci mettiamo sopra un po' di marmellata, ci mettiamo sopra il gusto della bufala in tavola, cioè miele e un po' di frutta a guscio mescolati, che sono buonissimi, sono altamente nutrienti. Facciamo in modo di avere una sazietà importante, ma anche qualcosa che sia molto gustoso e soddisfacente da un punto di vista proprio del palato. Perfetto, noi ci sentiamo domani, dottor Erzegovesi, per un'altra ricettina del nostro medicuoco quasi cuoco, e intanto vi aspetto a mezzogiorno. Buona giornata!